viente, casleva, mare, perché mi fai soffrire, nessuno. Chi sta abbracciato a te sta solo, solo profumo te fa male, e per spezzare sta malia parte per te scordare. Ma sì, ma manna di rimane, gli corra te va sa stimmano. Ma sì, ma manna di rimane, gli corra te va sa stimmare.